Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Buonasera e ben ritrovati da Laura Bettini per questa edizione, per questa serata di Effetto Notte. Vediamo subito insieme i titoli delle principali notizie. Iniziamo ovviamente dalla Covid-19, altri 200 casi e 8 vittime in Italia. In Veneto l'ASL avrà l'obbligo di denuncia per i positivi al virus che rifiutano il ricovero. A Roma sono 39 le persone positive collegate ai rientri dal Bangladesh. E l'India, intanto, nel frattempo diventa il terzo paese al mondo più colpito. C'è poi il decreto semplificazioni in Consiglio dei Ministri, attesa la decisione sui controlli autostradali in Liguria. Siamo in attesa perché si inizia alle 21:30. L'addio a Ennio Morricone, funerali privati, non voglio disturbare, ha scritto il maestro nel suo necrologio, è unanime nel mondo il cordoglio. La Ocean Viking è ferma davanti a Porto Empedocle, fatti i tamponi anti-Covid, non si sa come e quando avverrà lo sbarco. Londra sanziona 49 entità russe e saudite per mancato rispetto dei diritti umani. Terza operazione per Alex Zanardi, un intervento al volto durato 5 ore. E infine a Brescia si è costituito l'investitore della bambina di 9 anni, travolta e uccisa ieri. E come dicevo, una buona serata da Laura Bettini, dalla redazione tutta, da Alessandro Schirano che è in assistenza, in regia c'è Paolo Corleoni. Iniziamo dall'epidemia, iniziamo da quello che è successo in Italia, ci sono stati più di 200 casi, altri 8 morti, preoccupa il focolaio di Roma, mentre il presidente della Regione Veneto stringe su chi viola l'isolamento. Sono 8 le vittime di coronavirus registrate in tutta Italia nelle ultime 24 ore, 208, ieri 192, i nuovi contagi, tra questi nel Lazio 19, 12 dei quali di importazione dal Bangladesh, che portano così a 39 i casi legati al paese asiatico. Per questo un'ordinanza ad hoc è stata fatta in regione per assicurare test e tamponi ai 250 passeggeri appena arrivati a Roma a bordo di un volo speciale proveniente da Dhaka, la capitale del Bangladesh. Stretta nei confronti di chi arriva dall'estero anche in Veneto, dove il governatore Zaia ha presentato la nuova ordinanza regionale, prevede l'obbligo di isolamento, oltre che per le persone entrate in contatto con positivi arrivati da paesi extra Schengen, anche per chi rientra in Veneto dai paesi non sicuri elencati nell'ordinanza e che abbiano febbre o altri sintomi riconducibili al Covid. Diventa inoltre obbligatorio, pena sanzione da 1000 euro anche per aziende, sottoporre a 2 tamponi tutti i lavoratori che entrano in Veneto dall'estero. Se il primo tampone è negativo, il soggetto può andare al lavoro, ma con obbligo di mascherina, che potrà togliere solo in caso di secondo tampone negativo. Sentiamo Zaia. Oggi tutti coloro che sono in isolamento vengono segnalati al sindaco, al prefetto e all'autorità giudiziaria. Le aziende sanitarie venete dovranno inoltre far partire subito la denuncia per coloro che risultano positivi e rifiutano il ricovero. La Lombardia, dal canto suo, ha subito altre 3 vittime e 111 nuovi casi, ma a preoccupare sono anche i nuovi contagi in Campania, in provincia di Avellino, accertati nelle ultime 48 ore. I possibili focolai sarebbero stati originati da persone rientrate da paesi esteri. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E se ampliamo al mondo, troviamo che l'India diventa il terzo paese più colpito e in Europa torna la preoccupazione. Supera gli 11 milioni di casi ed è ormai abbondantemente sopra il 500.000 di vittime ufficiali la pandemia nel mondo, con l'emisfero australe ora nella stagione invernale che registra una delle situazioni più preoccupanti. In India oltre 24.000 nuovi casi in un giorno. Il paese è ora il terzo al mondo per numero di contagi, mentre divampa la polemica nella comunità scientifica locale sulla possibilità di arrivare a un vaccino già entro agosto. Tema controverso anche oltreoceano. La Food and Drug Administration americana ha smentito l'ottimismo di Trump sulla possibilità di averlo entro l'anno. Negli Stati Uniti oltre 250.000 casi in 5 giorni. L'inverno non aiuta l'Australia, dove è stata decretata la chiusura del confine tra gli stati di Victoria e New South Wales, evento più unico che raro. Questo a causa di un focolaio a Melbourne, dove i ricoveri ospedalieri sono triplicati in una settimana. In Perù superati i 300.000 casi. Nel paese andino siamo oltre il 110° giorno di emergenza. In Europa l'incremento dei contagi nei Balcani ha portato la Grecia a chiudere per una settimana gli arrivi dalla Serbia, mentre la comarca catalana del Segrià, che fa capo a Lleida, attualmente in lockdown, ha raddoppiato a 500 il numero dei contagi e altre 70.000 persone sono confinate in Galizia, nei pressi di Lugo. Allerta anche in Austria, dove i contagi tornano sopra quota 1000. Vienna si appresta a revocare l'avviso di viaggio emesso verso la Lombardia. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sul fronte economico, come dicevamo, il governo si riunisce tra mezz'ora per esaminare il decreto semplificazioni e il piano nazionale delle riforme, ma al di là delle misure manca un accordo completo tra le forze di maggioranza. Ne parleremo tra poco con Alessandra Schepisi subito dopo la viabilità. C'è poi l'altra questione che divide e che fa discutere nella maggioranza, è quella autostrade. La titolare del Ministero dei Trasporti avrebbe dovuto annunciare le sue decisioni sui controlli sulla rete ligure prima del Consiglio dei Ministri. Al momento attendiamo, non abbiamo indicazioni, ma anche qui ci aggiorniamo subito dopo la viabilità con Andrea Ferro per sapere un po' come va, com'è stata l'evoluzione, che cosa, se c'è qualcosa di nuovo. Intanto ci sono stati notevoli disagi sulla rete anche oggi. Un lunedì nero, una giornata ancora complicata per le autostrade liguri dopo il weekend difficile. Anche oggi ci sono stati ingorghi e file sulle varie arterie di collegamento a causa dei cantieri aperti per la messa in sicurezza delle gallerie. 10 chilometri di coda sono stati registrati in mattinata tra Masone e Voltri, bollino nero anche tra Recco e il bivio per la 7. La situazione delle autostrade liguri ha scatenato un duello a distanza tra il presidente della regione Giovanni Toti e la ministra dei trasporti Paola De Micheli. La Liguria è ostaggio della guerra tra governo e Autostrade per l'Italia, una guerra che dura dal giorno successivo al crollo del Ponte Morandi, attacca il governatore Toti, che invita l'esecutivo a prendere una decisione sulla revoca della concessione autostradale ad Aspi. Toti fa campagna elettorale, replica la ministra dei trasporti Paola De Micheli, che annuncia decisioni in serata sui controlli della rete autostradale ligure per un miglioramento progressivo della situazione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine a chiudere questa pagina la scuola, perché anche questo è uno dei temi che fanno sempre discutere in questo periodo. La prima campanella post-Covid suonerà il 7 di settembre in Alto Adige. Secondo l'andamento epidemiologico è previsto un modello a semaforo verde, quindi norme su assembramento, igiene, mascherine solo negli spazi comuni; giallo, distanziamento di un metro, obbligatorio l'uso della mascherina e gli ingressi scaglionati; e infine rosso, nuovo lockdown e didattica a distanza. Adesso andiamo a una pagina totalmente diversa, quella che riguarda la morte di Ennio Morricone. La 74esima edizione dei Nastri d'Argento sarà a lui dedicata questa sera. Il suo ultimo doloroso addio lo ha voluto dedicare alla moglie Maria, Ennio Morricone, nel necrologio scritto di suo pugno per salutare amici, parenti ed estimatori della sua musica. Per sua volontà i funerali si svolgeranno in forma privata. Alla moglie Morricone aveva dedicato anche il suo secondo Oscar, quello del 2016, uno dei molti premi che hanno costellato la sua lunga carriera. Da C'era una volta in America per un pugno di dollari a Nuovo Cinema Paradiso, il maestro non ha mai voluto rivelare quale fosse il suo film preferito fra i molti per i quali aveva composto colonne sonore indimenticabili. In tutti i film ho cercato di fare il massimo, amo tutti quanti, però c'è uno che amo di più, ma non lo dico. A piangere il compositore è tutto il mondo del cinema. La sua scomparsa ci priva di un artista geniale, scrive il capo dello Stato Mattarella. La sindaca di Roma propone di intitolargli l'Auditorium Parco della Musica. Una delle sue ultime composizioni, scritta in memoria delle vittime di Ponte Morandi, sarà suonata a Genova la sera prima dell'inaugurazione del nuovo viadotto progettato da Renzo Piano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dicevamo dei Nastri d'Argento in scena questa sera al Maxi di Roma. Si tratta dei premi assegnati dai giornalisti cinematografici italiani. I due film più premiati sono Favolacce di Damiano e Fabio Di Innocenzo, giudicato il miglior film, e Pinocchio di Matteo Garrone, che ottiene il premio per la regia. Prima la cronaca, andiamo a Porto Empedocle. Davanti a Porto Empedocle infatti ferma la Ocean Viking, come da indicazioni ricevute dalla Capitaneria di Porto, ma non ha ancora ricevuto informazioni su come e quando avverrà lo sbarco dei migranti soccorsi che si trovano a bordo. Dopo giorni di tensioni in mare con i migranti allo stremo e una situazione a bordo drammatica, la Ocean Viking, nave della ONG SOS Mediterranee, è arrivata con l'ok del governo italiano in rada a Porto Empedocle. A bordo ieri sono stati effettuati tamponi su 180 naufraghi. Dovrebbero essere trasferiti nella nave quarantena Moby Zaza, da dove scenderanno invece i 169 migranti reduci dall'arrivo della ONG tedesca Sea-Watch, il cui periodo di quarantena si conclude oggi con l'esito negativo del doppio tampone di controllo controllo anti-Covid. A Ruota i ponti della nave quarantena verranno sanificati per poter quindi imbarcare migranti della Ocean Viking per i 14 giorni di isolamento fiduciario. Resteranno 42 persone, di cui 30 contagiati dal Covid, sul ponte numero 7, la cosiddetta zona rossa. Il portavoce di SOS Mediterranee, Francesco Creazzo. Timore principale di queste persone è di essere riportate in Libia. Lo dicono chiaramente: noi preferiamo morire. La frase che ripetono più spesso è: la Libia è l'inferno. Nuovo allarme intanto per il mercantile Thalia al largo di Malta, con a bordo altri 52 migranti soccorsi alla deriva senza cibo né acqua, e un gruppo di 54 migranti di varia nazionalità è sbarcato nel porto di Crotone in quarantena in attesa di essere sottoposti ai tamponi anti-Covid. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo all'estero. Il Regno Unito ha varato sanzioni contro 49 persone e organizzazioni nell'ambito di un nuovo meccanismo adottato per punire le violazioni dei diritti umani. Nella lista nera di persone ed entità i cui beni nel Regno Unito saranno congelati ci sono in particolare 25 russi accusati di essere coinvolti nella morte dell'avvocato Sergei Magnitsky, detenuto nel 2009, e 20 sauditi sospettati di aver avuto un ruolo nell'assassinio del giornalista Khashoggi nel 2018 a Istanbul. La Russia ha appena risposto, si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione in relazione alla decisione ostile del Regno Unito, così ha dichiarato l'ambasciata russa a Londra in una nota. E andiamo alla terza operazione per Alex Zanardi, un intervento al volto che è durato 5 ore. Una corsa a tappe, sempre in salita, ma in cui Alex Zanardi non molla un centimetro. Il direttore dell'azienda sanitaria universitaria senese, Roberto Gusinu, sintetizza il quadro delle condizioni del campione paralimpico. Permangono stabili le condizioni da un punto di vista cardiorespiratorio e metabolico, mentre permangono gravi le condizioni da un punto di vista neurologico. Tre gli interventi che ha finora subito Alex. Quello effettuato proprio il 19 giugno, quando sulla strada statale che collega Pienza a San Quirico d'Orcia, durante la staffetta ciclistica Obiettivo Tricolore organizzata dalla sua società sportiva, Zanardi perse il controllo della sua e-bike sbattendo con il volto contro un camion che arrivava nell'altra corsia. Poi il 29 giugno un secondo intervento neurochirurgico e ora per il 53enne campione questa operazione di ricostruzione maxillofacciale durata 5 ore ed eseguita dall'equipe coordinata dal professor Paolo Gennaro. L'intervento è perfettamente riuscito dal punto di vista tecnico, grazie appunto al lavoro di squadra svolto dall'equipe maxillofacciale e neurochirurgica. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora, prima di dare spazio alla viabilità, abbiamo due notizie dell'ultima ora che vengono dall'estero. Dagli Stati Uniti, una nuova azione controversa della polizia che sabato ha ucciso con almeno 8 colpi a bruciapelo un uomo che si trovava nella sua auto a Phoenix, in Arizona. La vittima è James Garcia, si chiama così, un residente ispanico, un caso che ha già innescato altre polemiche e proteste dopo quelle ben note per la morte di George Floyd. E poi poco fa dalla Francia i magistrati contestano decisamente la nomina alla carica di ministro della giustizia di Éric Dupond-Moretti. Una dichiarazione di guerra alla magistratura, ha commentato stasera il sindacato dei magistrati, il primo sindacato USM dei magistrati francesi. Nominare una personalità così schierata e che disprezza i magistrati, ha detto la presidente del sindacato, è una dichiarazione di guerra alla magistratura. Notizie che arrivano dall'estero, noi abbiamo uno spazio per la viabilità, poi torniamo in Italia, andiamo a Roma perché appunto tra un quarto d'ora inizierà il Consiglio dei Ministri. Alessandra Schepisi è già in linea con noi. Se la sportività che cerchi in un'auto non è solo parcheggiare sul marciapiede, se la tranquillità del divano è l'ultima cosa a cui pensi quando sali a bordo, se cerchi sempre qualcosa che non si confonda con gli altri, per te è arrivata nuova Seat Leon, sportiva, connessa, ibrida. Oggi con un nuovo design e l'esclusivo Seat Light Concept. Fari full LED, illuminazione interna a LED intelligente e personalizzabile e LED posteriore cost to cost. Nuova Seat Leon, disegnata dalla luce. Tua da 19.500 euro. Scoprila su seatitalia.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E allora eccoci di nuovo insieme, le principali notizie di questa giornata. Abbiamo detto del Covid-19, altri 200 casi, 8 vittime in Italia. L'ASL in Veneto avrà l'obbligo di denuncia per i positivi al virus che rifiutano il ricovero. L'India è diventato il terzo paese più colpito in questa giornata perché aumentano seriamente i casi. Il decreto semplificazioni invece al Consiglio dei Ministri italiano, ne parliamo tra pochissimo. L'addio a Ennio Morricone, ovviamente, i funerali privati, non voglio disturbare, ha detto così il maestro nel suo necrologio. Abbiamo parlato di Ocean Viking, ferma davanti al porto di Porto Empedocle, sono stati fatti i tamponi anti-Covid ai migranti a bordo, non si sa nulla però del loro futuro sbarco. E poi la terza operazione per Alex Zanardi, un intervento al volto durato 5 ore. E allora Alessandra Schepisi è in collegamento con noi da Roma. Il governo si riunisce per questo decreto semplificazioni e il piano nazionale delle riforme. Una decina di minuti, no? Ci separano teoricamente almeno dall'inizio, però chissà. Alessandra, buonasera. Sì, buonasera Laura, è così, alle 21.30 è stato fissato questo Consiglio dei Ministri e dopo giorni di trattativa, dopo un cammino segnato, come sappiamo, da rinvii, battute d'arresto, la maggioranza sembra aver trovato l'intesa sul decreto semplificazioni che dovrebbe appunto essere licenziato questa sera dal Consiglio dei Ministri. Via libera potrebbe arrivare anche in tarda serata e anche con la formula del salva intese, cioè un'intesa di massima sulla quale potranno esserci ulteriori modifiche in un secondo momento. Un provvedimento che negli obiettivi del governo punta a sburocratizzare, semplificare la vita di imprese e cittadini, far partire velocemente i cantieri con un regime straordinario per gli appalti che potrebbe arrivare fino al 31 luglio del 2021, digitare la pubblica amministrazione. Si è lavorato appunto fino all'ultimo per sciogliere alcuni nodi che hanno riguardato in particolare i commissari, super commissari per le grandi opere, la valutazione di impatto ambientale. Domani mattina è prevista una conferenza stampa del Premier Conte, il quale poi ha una serie di impegni europei, volerà tra Spagna, Portogallo e Germania, incontri che rientrano nella trattativa sul Recovery Fund. Stasera infatti sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è anche il piano nazionale delle riforme che appunto era stato rinviato, di solito è allegato al DEF di aprile, è stato rinviato a causa Covid, con novità su fisco, investimenti in scuola, ricerca, trasporti, banda larga, sostegno ad alcuni settori strategici come il turismo, la cultura, la farmaceutica e il biomedicale, piano che rappresenta appunto la base di quel recovery plan che Conte porterà a settembre a Bruxelles per cercare di utilizzare le risorse europee. Dunque Laura, menù ricco, quello del Consiglio è dei Ministri molto stasera, ricco, molto, staremo a vedere che cosa verrà portato a casa. Salvo intese, no? Come salvo dicevi, intese. Grazie Alessandra Schepisi, appunto salvo intese è proprio lì la chiave di tutto, i temi sono tantissimi. Dicevo, chissà se saranno in orario perché ci aspettavamo nel corso della giornata anche un intervento della Ministra De Micheli per quello che riguarda le autostrade italiane. Sappiamo che è stata un'altra giornata di passione sulle autostrade, ne abbiamo parlato prima nel corso di GR24, le immagini che vedo scorrere anche sulle televisioni nazionali sono quelle di code chilometriche in Liguria e caos, questo è quello che viene descritto molto più spesso in queste ultime ore, in queste ultime giornate. E allora a questo proposito ci colleghiamo innanzitutto con Genova, fulcro diciamo di tutto questo, con Andrea Ferro. Buonasera Andrea. Buonasera Laura, buonasera agli ascoltatori. Ci aspettavamo questo intervento della Ministra De Micheli, non è arrivato per il momento, chissà se questo farà slittare un po' più avanti il Consiglio dei Ministri oppure se è tutto confermato per il Consiglio dei Ministri, ma non ci sono certezze per le autostrade. No, siamo in attesa di questo intervento che appunto era stato annunciato stamane nel corso di una conferenza stampa dalla Ministra De Micheli a Reggio Emilia. Ha detto in sostanza prenderò una decisione appunto sui controlli nelle gallerie, lasciando intendere evidentemente che il Ministero potrebbe decidere tecniche e modalità meno invasive e quindi in qualche modo mitigare le conseguenze. Perché prima ricordiamo un po' come siamo arrivati, sì, diciamo, no, a questo punto. Ricordiamo, una storia abbastanza lunga, cerco di fare un esercizio di sintesi, è una storia che inizia nel dicembre scorso, per l'esattezza era il 30 dicembre, quando forse gli ascoltatori lo ricorderanno, dalla volta della Galleria Bertè, siamo sulla 26, la Voltri Gravellona Toce, tra i caselli di Masone e Ovada, venne giù una lastra, per fortuna in quel momento non stavano transitando veicoli e quindi, come si bene scrive così, esatto, in queste situazioni, come i cronisti scrivono, tragedia sfiorata. Chiaramente quell'episodio però portò alla ribalta la necessità di implementare i controlli all'interno delle gallerie. Teniamo presente che contemporaneamente c'era anche la questione, e resta la questione, dei viadotti, ahimè, dopo quello che era accaduto nell'agosto del 2018 con il ponte Morandi, quindi oltre ai viadotti dovevano essere ricontrollati, o meglio controllati, sottoposti a manutenzioni adeguate tutte le gallerie. Tieni conto, Laura, tenete conto ascoltatori, che sulla rete di ASPI ci sono 587, chiaramente rete gestita da ASPI, ci sono 587 gallerie, bene, di queste 285 sono sul nodo Ligure, quindi per intenderci la particolarità di questo territorio sotto il profilo infrastrutturale. Bene, da quel momento ASPI decide, d'intesa con il Ministero, di rivedere sostanzialmente tutte queste gallerie attraverso un piano concordato. I lavori vanno avanti nel corso del lockdown, anzi potremmo dire sono favoriti. E questo anche ormai è stato modo accertato, nel senso che ci sono state un po' di polemiche, no? La gente si domandava, ma insomma perché no? Infatti, e invece è stato fatto. ASPI ha fatto quello che doveva fare sulla base di questo protocollo richiesta, che era stato appunto stilato dopo il crollo sulla 26, chiaramente non riguardava solo la rete Ligure, ma riguardava un po' tutta la rete, non riguardava solo i tratti gestiti da ASPI. È successo questo però, che quando praticamente questi lavori sono conclusi e siamo alla fine di maggio, il Ministero dice no, bisogna rifare questi interventi perché in base ad una legge del 1967 devono essere smontate anche le onduline sono praticamente quei rivestimenti anti-infiltrazione che stanno sulla volta della galleria, e bisogna farlo, questo ha prescritto il Ministero, entro il 30 giugno, e qui è nato il grosso problema, perché ASPI chiaramente ha dovuto dare seguito alle disposizioni del Ministero, però ha fatto presente che in così poco tempo evidentemente non si poteva fare tutto, e ha chiesto di allungare i tempi, quindi. E ha prospettato addirittura l'ipotesi di chiudere interi tratti anche di giorno e non solo di notte come avviene ora. C'è stata un'ulteriore trattativa, diciamo così, con il Ministero, e si è arrivati ad prolungare questo periodo di una decina di giorni, quindi entro il 10 luglio dovrebbero terminare gli interventi sui nodi più critici, però proseguiranno ancora fino alla fine di luglio, diciamo, per completare le 74 gallerie che sono sotto osservazione sotto questo profilo. Però evidentemente quello che sta succedendo in queste ore, al di là del cronoprogramma, è gravissimo per il territorio Ligure, lo raccontiamo nei GR. È chiaramente questo un territorio che, come tutti gli altri, prova a ripartire dopo il lockdown, è un territorio però che vive molto di turismo, siamo nel pieno dell'estate, gli albergatori lamentano disdette da parte di chi e poi alla fine ha deciso di non venire magari in Liguria perché non voleva sopportare le incertezze di un viaggio infinito. E poi ci sono le conseguenze, Laura, sulla logistica, in particolare sul delle porto, delle merci, poi aveva... certamente abbiamo già visto qualche d'una di queste, alcune erano già note, altre sono arrivate negli ultimi giorni, e quindi dimostrano una situazione che può solo peggiorare in questo momento, insomma. In questi giorni praticamente in Liguria si è preparati a 3-4 giorni di ingorgo sistematico, poi appunto, come dicevo, da venerdì dovrebbero essere smantellati i cantieri nei nodi più critici, così ha ribadito ancora oggi l'amministratore delegato di ASPI Tomasi, e a quel punto dovrebbe essere in qualche modo un po' mitigato il disagio, però ha tenuto a precisare lo stesso amministratore che i lavori andranno avanti e quindi inevitabilmente la situazione sarà critica. Teniamo presente che la situazione è critica a prescindere dalla lavori nelle gallerie, perché la rete infrastrutturale della Liguria è ormai datata e comunque da tempo inadeguata sia alle esigenze della mobilità e della logistica. A proposito della logistica, venerdì scorso il Sole 24 Ore aveva riportato la notizia che Costco, che è un colosso dello shipping cinese, aveva invitato i clienti a non far transitare le merci dal porto di Genova e deviarle su altri porti italiani. Il rischio, come però sottolinea chi voglio dire è esperto in materia, è che qualcuno decida, anziché diciamo dirottarli su altri scali italiani, di dirottarli evitarli direttamente verso i porti, certo, del nord Europa, che con, poi una che già normalmente sono dei competitor pesanti. Assolutamente, perché pur essendoci 3 giorni e mezzo di navigazione in più per le navi che magari escono da Suez e devono arrivare nel Mediterraneo, chiaramente l'Italia è una piattaforma galleggiante logistica perfetta, però essendoci dei problemi purtroppo infrastrutturali al di là di quello che sta succedendo, il deficit infrastrutturale incide parecchio sulla competitività della nostra logistica, ebbene queste navi talvolta hanno convenienza a fare appunto 3-4 giorni di navigazione in più, sbarcare le merci magari nel porto di Rotterdam, e poi c'è una rete infrastrutturale che in poche ore li porta ovunque, che in poche ore, soprattutto anche via ferrovia, smista queste merci nel cuore dell'Europa, addirittura nelle regioni del nostro nord Italia. Precisamente. Quindi in questa situazione il rischio per il porto di Genova è molto alto. Ancora oggi c'è stata una mobilitazione da parte delle categorie produttive, c'è stato un incontro appunto con l'amministratore delegato di Autostrade Tomasi, certamente si provano tutte le soluzioni, ma in realtà quando hai autostrade che sono ridotte ad una corsia puoi fare ben poco. C'è poco da fare, però questo famigerato, famosus intervento della ministra che non arriva, che cosa avrebbe potuto portare di nuovo in questa situazione? Da quello che si può capire, perché poi di fatto voglio dire, noi abbiamo letto tutti questo flash di agenzia in cui appunto la ministra dice decido sui cantieri, evidentemente sulla base di una valutazione delle tecniche che possono essere adottate per garantire da una parte la sicurezza e dall'altra una maggiore fluidità del traffico, ecco, può forse la ministra dare disposizioni affinché questi interventi ci siano, cioè sia garantita la sicurezza, che chiaramente è una priorità al di là dei disagi, ma al tempo stesso magari possano essere dilatati nel tempo alcuni interventi, così come peraltro era previsto nel piano iniziale concordato tra Ministero e Autostrade per l'Italia, affinché in qualche modo si possa garantire almeno la percorrenza su buona parte della rete su 2 corsie, perché lo ricordo, oggi è paradossale, ma siamo, voglio dire, nel pieno dell'estate, per andare a Levante o a Ponente c'è una sola corsia. Pensate, basta un camion in avaria e si paralizza tutto. Il che ovviamente non è un caso impossibile. Allora, Andrea, grazie molte. Se ci fossero novità, risentiamoci. Cosa ti devo dire? Qui d'accordo, noi aspettiamo. Fiduciosi. Aspettiamo la comunicazione della ministra. Che comunque ministra. Non sarà Laura, una soluzione, sarà un allungamento dei tempi, anche se dovesse esserci un cambiamento. Quindi un alleggerire la pressione, ma non toglierla. Non credo che ci sia certo una smobilitazione sul fronte della sicurezza, anche perché in qualche modo smentirebbe quello che è accaduto finora. Evidentemente, se la sicurezza è una priorità, la sicurezza deve essere garantita. Questo è stato il faro che ha condotto la linea del Ministero fino ad ora. Grazie Andrea, buon lavoro, buona serata. Grazie a risentirci. Noi abbiamo una piccola pausa e ci troviamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Iniziamo con i titoli della giornata. Covid-19, altri 200 casi, 8 vittime in Italia, e l'India diventa il terzo paese più colpito al mondo. C'è poi il Consiglio dei Ministri con il decreto semplificazioni in esame, dovrebbe iniziare proprio in questi minuti, e poi si attendono anche delle decisioni sui controlli autostradali in Liguria. Per ora non sappiamo niente, dovrebbero arrivare comunque da parte della ministra De Micheli, che li ha promessi in giornata, diciamo così. Oggi è la giornata dell'addio a Ennio Morricone, il cordoglio è unanime in Italia e ovviamente all'estero. Il maestro ha scritto: voglio funerali privati, non voglio disturbare. Notizia di pochi istanti fa: a Port Empedocle sta entrando in porto la Ocean Viking, a bordo ci sono 180 migranti che però non scenderanno a terra, verranno trasferiti su un traghetto dove appunto saranno dopo aver visto l'esito dei tamponi, ovviamente il virus Covid, stiamo parlando di quello, tamponi per quel motivo lì. C'è stata una terza operazione in giornata per Alex Zanardi, intervento al volto durato 5 ore. Infine a Brescia si è costituito l'investitore della bambina di 9 anni che è stata travolta e uccisa ieri. Ma riprendiamo con una lettera che è stata scritta da firmata da un cospicuo numero di scienziati nel mondo, 239 per l'esattezza. Scienziati di primo piano di 32 diversi paesi diversi hanno invitato l'OMS a rivedere drasticamente le proprie linee guida sulle misure consigliate ai governi di tutto il pianeta per il contenimento della Covid-19. Una ricerca che sembra destinata ad avere un impatto importante sulle raccomandazioni in materia di prevenzione e che punta in particolare l'attenzione sulla trasmissibilità aerobica di questa malattia. La questione ci ha immediatamente riportato qui a Radio 24 a un altro studio compiuto da medici italiani, in particolare dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, che ha coordinato un vasto studio in Italia e in Europa, che ha già pubblicato una position paper sulla valutazione della potenziale relazione tra l'inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione dell'epidemia da Covid-19. E allora abbiamo chiamato il presidente della SIMA ed è il professor Alessandro Miani, che è in collegamento con noi. Buonasera professore. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, si rafforza sempre di più questa sì, fondamentalmente, ricerca. Fondamentalmente il position paper che noi abbiamo pubblicato a metà marzo e che ha avuto un accoglimento non troppo felice da parte delle autorità a cui era indirizzato. Che erano in particolare, scusi se glielo faccio ripetere. Si figuri. Che era semplicemente quello, abbiamo evidenziato da dati preliminari, poi lo studio è stato già accettato per la pubblicazione e poi ne abbiamo pubblicati già un certo numero di altri su riviste importanti internazionali, ed era quello sulla correlazione di come mai in alcune regioni d'Italia c'era in corso all'epoca una evidente disparità di corsa, di velocità, diciamo, di diffusione del virus rispetto ad altre regioni. E noi avevamo ipotizzato all'epoca che fosse dovuto ai tassi di inquinamento atmosferico, ovvero sia che, come avviene per altri virus, peraltro ben documentato in letteratura scientifica, un virus possa essere trasportato dal particolato in certe condizioni e quindi poteva infettare più persone se non si tenevano distanze adeguate di sicurezza e uso diffuso di mascherine. Questo studio è andato avanti, abbiamo creato una task force internazionale che si chiama RESCOPE, a cui hanno aderito moltissime delle più importanti università al mondo, da tutti i continenti, e anche molte università italiane, ovviamente, che poi era il nucleo iniziale assieme a noi come coordinamento SIMA. E abbiamo trovato tracce di RNA virale sul particolato atmosferico di Bergamo e anche questo studio lo abbiamo pubblicato, siamo i primi e al momento gli unici al mondo ad averlo trovato, ma lo studio comunque sta andando avanti. Questo documento invece a cui faceva riferimento altro non è che una sorta di editoriale position paper anch'esso, che sulla scorta anche delle nostre ricerche, ma anche di tante altre ricerche che oramai sono state pubblicate nel mondo, dice fondamentalmente che queste goccioline, questi droplets che noi abbiamo imparato a conoscere, quelli più piccoli, che non è lo starnuto, quindi sono più piccole, ecco. Guardi, noi con uno starnuto emettiamo circa 300.000 goccioline, ce ne sono alcune che sono più grandi e che quindi cadono a terra prima nel raggio di un metro o due metri massimo, e altre invece, questo è già stato dimostrato per l'indoor, possono diciamo viaggiare nell'aria per alcuni metri, sai, chi dice 6, chi dice 8 metri, ma basterebbero questi 6-8 metri se le distanze di sicurezza ad oggi raccomandate 1,5 metri e non c'è l'uso della mascherina, a poter infettare molte persone in un ambiente al chiuso. L'ambiente al chiuso è dotato, diciamo, di una certa stabilità atmosferica. Ecco, questo position paper dice che queste goccioline possono viaggiare nell'aria anche all'esterno. Noi lo dicevamo perché nella nostra ipotesi si possono legare al particolato e da queste essere trasportate. Loro invece dicono, sono diciamo scienziati da tutto il mondo, però sono aerosolisti, insomma, come branca d'appartenenza. Tra di loro c'è anche il professore De Gennaro, che è uno diciamo dei ricercatori che con noi hanno fatto i nostri studi. E loro dicono che anche diciamo in assenza di particolato, okay, queste goccioline possono muoversi per più metri, quelle più fini, certo in certe condizioni comunque di stabilità atmosferica. E questo che cosa impone? Impone una riflessione, anche se non è ancora stato dimostrato un nesso diretto causa-effetto, però sappiamo per esempio per l'indoor, questo è stato voglio dire evidenziato da tanti studi scientifici, se noi respiriamo anche semplicemente chiacchieriamo, possiamo emettere queste goccioline, e queste goccioline possono raggiungere un certo numero di metri di distanza. Stessa cosa questi scienziati lo sostengono per l'outdoor, e che cosa fanno? Suggeriscono all'autorità principe della tutela della salute globale, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di rivedere le linee guida. Noi all'epoca l'avevamo suggerito, sì, al nostro governo e ad alcune regioni. E diciamo però, che insomma, non avete sfondato del tutto. Non abbiamo sfondato le porte italiane, ma abbiamo sfondato le porte mondiali, che dal punto di vista scientifico, che poi era, voglio dire, l'idea di un position paper, c'era stato detto sì, ma non è una pubblicazione scientifica. Adesso ne abbiamo 4 già pubblicate sul tema, passate in peer review su riviste di grande impact factor, e quindi al momento non ci dicono nulla, però non è fatto tanto per dire chi ha ragione e chi ha torto. Questi sono, diciamo, degli studi e anche delle condivisioni con il decisore e con la comunità scientifica per dare una risposta a un qualcosa che oggi in Italia sentiamo di meno, ma che in alcuni esiste. Paesi del mondo, quelli che citava lei prima, dagli Stati Uniti all'India e ad altre parti del mondo, si stanno mietendo ancora moltissime decine di migliaia di vittime. Siamo a livello mondiale, abbiamo sorpassato i 500.000 decessi, è come una grande guerra, e non siamo ancora fuori perché ancora non c'è un vaccino. Quindi quello che noi diciamo e che anche questi scienziati dicono è: cerchiamo di mantenere le distanze maggiori possibili, e usiamo la mascherina sia al chiuso che all'esterno per passare questo periodo. Io posso aggiungere, ovvio, laddove è possibile, è importante anche la ripartenza, è importante anche l'economia, ma forse è più importante fare un filo più di prevenzione adesso piuttosto che trovarci magari in un nuovo lockdown, che sarebbe anche la fine per il paese. Certo, ecco. Certo. Professore, grazie molte, allora buon lavoro, complimenti per il vostro studio e buon proseguimento. Grazie, buona serata. Buona serata, abbiamo la viabilità. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora. Agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99 TAG 6,11 con finanziamento iBuy salvo approvazione Nissan finanziaria. Info e condizioni su nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo insieme, ancora una buona serata da Laura Bettini. Abbiamo parlato dell'epidemia di Covid-19. Bene, uno dei paesi che sappiamo da lungo tempo sono interessati da questa epidemia, ma che non soffrono solo per quella, ma anche per una serie di altre questioni che, quando saprete di che paese parlo, capirete immediatamente. È l'Iran. L'Iran, che oggi è stato protagonista ai Med Dialogues, i dialoghi con i protagonisti del Mediterraneo che vengono annualmente organizzati dall'ISPI, che si stanno svolgendo quest'anno ovviamente anche loro online e non come di consueto in persona a Roma, è stato ospite dei Med Dialogues il ministro degli esteri iraniano Zarif in una rara intervista in Occidente ormai, soprattutto in questi mesi, diciamo, di gelo. Il dialogo è stato condotto dal direttore vicepresidente dell'ISPI Paolo Magri. La responsabile del desk Iran all'ISPI è invece Annalisa Perteghella e lei è in collegamento con noi. Buonasera Perteghella. Buonasera. Allora, chiaramente ci sono varie crisi che si innestano sull'Iran. Quella ultima è quella del Covid-19 e ci sono numerosissimi casi. Oggi abbiamo visto risalire la curva. L'Iran è entrato e uscito, insomma, nella spirale della Covid più volte, anche per la necessità di rimuovere l'economia che è aggravata, come sappiamo, dalle sanzioni. Quindi c'è una crisi economica in corso, una crisi sanitaria che si intrecciano. Direi che dal colloquio che ha avuto oggi il ministro Zarif con Paolo Magri questo era piuttosto evidente. Ne ha parlato anche abbastanza diffusamente, tutto sommato, direi. Esatto, sì, il ministro Zarif ci ha tenuto a sottolineare come in realtà appunto fa da un paio di mesi, insomma, da quando è scoppiata l'emergenza in Iran, che l'Iran si trova ad affrontare questa sfida, direi comune alla intera comunità internazionale, però non con gli stessi mezzi a disposizione degli altri paesi del mondo, insomma, perché appunto l'Iran è gravato da una serie di sanzioni che mettono, diciamo, che hanno messo in enorme difficoltà il paese nel fornire la risposta. C'è anche un lato di, diciamo, si era aperta una possibilità di sviluppi diplomatici nel dialogo con gli Stati Uniti, che sappiamo essere molto problematico, insomma, da un paio di anni a questa parte. L'Iran aveva chiesto agli Stati Uniti di Trump di sollevare momentaneamente le sanzioni. Alcuni paesi europei si erano fatti portavoce di questa richiesta, cercando appunto di convincere Trump che il momento era buono, insomma, c'era l'occasione per rilanciare il dialogo, ma gli Stati Uniti non hanno, diciamo, colto l'appello iraniano, per cui appunto, come dicevi tu Laura, effettivamente l'Iran si sta assistendo proprio in questi giorni a una, non direi seconda, ma terza, quarta, quinta ondata. Il paese non ha potuto chiudere, diciamo, del tutto, perché appunto la situazione economica è già pesantemente compromessa, per cui non si potrebbe, diciamo, caricare delle conseguenze di una chiusura totale dell'economia. Per cui si cerca di mettere una toppa, diciamo, qua e là, però come sappiamo, insomma, nei paesi che non hanno chiuso completamente, il problema si trascina, ecco. Il problema sanitario sicuramente si trascina. Annalisa, grazie per questi aggiornamenti, buon lavoro, buon proseguimento con i Med Dialogues che vanno avanti, no? Ci sono ancora diversi giorni e diciamo, in una certa misura, il vantaggio di poterli seguire online li apre un po' a tutti noi, a differenza magari di altri anni. Buon lavoro e buon proseguimento. Grazie a voi. Anche a voi. In chiusura vogliamo ricordare anche noi ovviamente Ennio Morricone. Io ho scelto qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo sentito nel corso della giornata. Stiamo ascoltando Dulce Puentes, il film sostiene Pereira, le musiche ovviamente sono di Ennio Morricone. E maestro Roberto Giuliani, il direttore del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, è in collegamento con noi. Intanto le do la buonasera. Buonasera. Lei ha tra l'altro scritto moltissimi volumi, ricordo La musica nel cinema e nella televisione, alla cui presentazione intervenne proprio Ennio Morricone. Non so, le chiedo, condivide la mia scelta, tanto per una scelta un po' diversa, ecco, diciamo, musicalmente rispetto alla giornata? Ma sì, perché diciamo di Morricone probabilmente per molto dovremmo continuare a scoprire le mille facce della sua grandissima attività compositiva. Per noi è una grande perdita, perché Morricone era nato così musicalmente all'interno del conservatorio, era stato allievo del conservatorio dal 40 al 56 e poi era rimasto sempre molto vicino, appunto lei cita quando venne per la presentazione del libro La musica nel film e nella televisione con Sergio Miceli e Franco Piersanti, ma anche più recentemente organizzammo per lui un concerto per i 90 anni invitando a suonare tutti i maestri che normalmente suonavano con e per lui, e da Gilda Buttà per esempio, la sua pianista preferita. E anche perché Morricone era per i nostri docenti, ma soprattutto per i nostri studenti, un grandissimo esempio di più professionalità. Morricone ha orchestrato musica leggera, cosiddetta leggera, ha composto una gran quantità di repertorio classico di musica assoluta, come si suol dire. Ha influenzato gruppi pop, rock in giro per il mondo. Sì, diciamo che è la dimostrazione che quando si scrive della musica buona, questa musica può non avere confini. Poi certo è conosciuto soprattutto per i monumenti di musica per film che ha scritto. Di fatto lui, assieme a Nino Rota, è il creatore di un genere che ha sdoganato, come si usa dire oggi, la musica per film dalla sudditanza rispetto al regista. Ci sono dei film di cui la colonna sonora Morricone ha scritto, che sono molto più famosi per la parte musicale che non per la parte visiva. Infatti si chiacchierava con lui di questo aspetto, in alcuni casi: ma se il film non avesse avuto quella data musica, quella data timbratura, quel fischio, quella tromba, quel coro, quell'uso della voce, sarebbe diventato così famoso, così importante? Forse no. Questo però non dobbiamo dimenticarlo, perché la musica in Italia è ancora troppo dimenticata rispetto alle altre arti. È così valutata e così dimenticata. E ce ne ricordiamo solo quando scompaiono questi grandissimi. Morricone è stato un grandissimo personaggio del Novecento. Io spero che si continui a suonare non solo la sua musica per film, ma anche la sua musica appunto assoluta. Quindi adesso comincia un gran lavoro di scavo, di riproposizione, ma soprattutto è importante che si valuti questo suo eclettismo. Morricone aveva una formazione talmente solida, la formazione compositiva talmente solida da poter ben lavorare, ben produrre in qualsiasi campo al quale si accostava. Sì, e questo, maestro, è molto importante, sì, anche per i nostri giovani. Esattamente. Maestro Giuliani, la ringraziamo molto per questo ricordo. Grazie a voi. La salutiamo, una buona serata. Grazie ad Alessandro Schirano, a Paolo Corleoni in regia, da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto su Radio 24.